L'uccisione di Quinteri. Pietro Quinteri aveva sempre simpatizzato per i partigiani, ma non li aveva mai raggiunti. La mattina del 5 settembre del 44, Quinteri si era aggregato ad una pattuglia di soldati alleati in ricognizione sulle pendici di Montemorello e con alcuni compagni era riuscito a sottrarre una mitragliatrice alla retroguardia tedesca che aveva occupato la villa di Carmignanello. La sera tornò da solo negli stessi luoghi, forse per studiare altre azioni, o forse solo sulla scia dell'entusiasmo. Fu trovato morto il giorno successivo, ucciso da un colpo di fucile in dotazione all'esercito tedesco. La strada d'accesso alla villa era stata minata. Probabilmente Quiter era arrivato durante i lavori ed era stato preso dalle sentinelle.